Va ora in onda Rock Revolution. Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Sera, buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Quest'oggi iniziamo con un notevole ritardo, ma non ce ne vogliate, insomma. Abbiamo dato spazio al freestyle che è iniziato un pochettino in ritardo, adesso siamo pronti, noi abbiamo approfittato di questa pausa per rilassarci un pochettino dopo questa settimana veramente molto intensa e umida, o aggiungerei. Do il benvenuto a Simone, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di CRMP Radio. Ecco, anche quest'oggi ti abbiamo sentito in radio. Che ci sei a fare qua fuori da Rock Revolution? Noi abbiamo un'esclusiva con te, quindi... E c'è il copyright, se ne tanto lo violo. Infatti. Allora, anche stasera, insomma, un bel po' di notizie molto interessanti. Ad esempio parleremo di Elton John, no? Sì, parleremo di Elton John, appunto, alcuni suoi giudizi su Lady Gaga. Ancora parleremo dei Grammy Awards, che vede ancora una volta Lady Gaga protagonista con i Muse, un particolare connubio, potremmo dire. Molto bello. Molto bello. Ancora gli U2, che appunto si rivela che potrebbe avere qualche problema per il loro prossimo concerto in Africa. Slash, che parla di una probabile, quanto probabile, reunion dei Guns Roses, ma ancora con qualche dubbio. E insomma, poi ancora tante notizie che non vi sto qui ad anticipare, che scopriremo man mano durante la puntata di Rock Revolution. Infatti, una puntata che, anche se iniziamo con un'ora di ritardo, insomma, ci sarà comunque un'intervista con la band emergente di questa settimana. Ci metteremo in collegamento telefonico con Bologna e andremo a conoscere i D-Lane o D-Lane, adesso scopriremo anche esattamente la pronuncia. Poi parleremo, insomma, di questa nuova apparizione di Liam Gallagher, a quanto pare pronto con un nuovo lavoro da solista, Billie Eilish, lo scopriremo più avanti, sapremo insomma di cosa si tratta. Poi ancora gli U2, il Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. Do il benvenuto a Gianni in regia. Gianni, buonasera, salutiamo anche la nostra redazione Ida. Allora, in vari modi per mettervi in contatto con noi. Sì, gli SMS 335 5637 251, Facebook, qualora non ci avesse già tra i vostri contatti, cercate Rock Revolution redazione. Ancora Messenger, l'indirizzo aggiungete diretta chiocciola rockrevolution.it, e infine i messaggi mail allo stesso indirizzo, diretta chiocciola rockrevolution.it. Salutiamo Veronica, che già si è messa in collegamento con noi, ci sta ascoltando. C'è stato un qui pro quo. Vabbè. Ah, che bello, mi piace iniziare con un bel classicone, gratta accordi, diciamo così, va. Sono gli ACDC, Highway to Hell. anche stasera, insomma, tanti amici che ci seguono su internet, dal nostro sito internet rockrevolution.it, oppure dal sito della nostra emittente crmpradio.it. E quindi li salutiamo tutti quanti, ci stanno seguendo in audio e video streaming, quindi significa che praticamente ci ascoltate, ci guardate dalla webcam, quest'occhio nascosto che ci cattura ogni venerdì sera, ma anche gli altri colleghi, a quanto pare so che c'è qualcuno che si mette proprio in tiro ogni settimana. E non è giusto, insomma, per venire bene poi in webcam, visto che voi cari ascoltatori ci seguite anche da lì. AC/DC Highway to Hell, primo classicone da ascoltare tutto d'un fiato a iniziare questa ennesima puntata di Rock Revolution. Un altro gruppo che ha fatto molto parlare di sé, e ci sono anche delle belle notizie che li riguardano, però lo scopriremo la prossima puntata, perché ancora non è certo, se non sono cose proprio confermate non ve le diamo, e mi sembra giusto. Loro sono i Pearl Jam, anche loro sopravvivono, è Life. I got a little story for you. What you thought was your daddy was nothing but a while you were sitting home alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad it's all. Oh, oh, I Pearl Jam con Alive, bello sto pezzo, eh. Allora è arrivato il momento di andare ad ascoltare il primo brano della band che questa sera abbiamo il piacere di presentarvi. Loro sono i D-Lane, questo è un brano che noi abbiamo selezionato fra tantissimi, abbiamo ricevuto una loro segnalazione, anzi se volete anche voi fatelo dal nostro portale www.rockrevolution.it. Questo si intitola Il pensiero più bello, D-Lane, Rock Revolution, buon ascolto. Mi costa tanto spiegare quanto è difficile cercare di attaccare i pensieri alle parole. L'inchiostro alla mente, fa male vedere colori dove altri non vedono niente. Cerchi un senso, lo vuoi in un attimo, ed io posso darti un mondo tra i tanti che ho trovato a modo mio per ingannare. Ho saputo tramite Simone che ci sono degli ascoltatori anche dal Brasile, da San Paolo, li salutiamo tutti quanti, adesso non so esattamente come si possa dire in brasiliano, purtroppo è una lingua che mi manca, lo so, purtroppo bisognerebbe poterle sapere tutte quante, però insomma diviene difficile. Allora ci mettiamo in collegamento telefonico con i D-Lane, adesso scopriremo anche se la mia pronuncia è corretta oppure si pronuncia italiano. Siamo al telefono con Daniele Berni, percussioni e cori. Daniele, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Grazie a te, a voi, benvenuti a Rock Revolution. Allora ricordiamo subito il vostro indirizzo MySpace, lo faccio io, www.myspace.com/dilanemusic, music, basta, no, Dilane Music, ho detto bene? Esatto. Bene, allora Daniele, presenta un po' di lei nel popolo di Rock Revolution, raccontandoci la storia del vostro progetto, come nasce, da quanto tempo suonate assieme, insomma roba del genere. Ok, il progetto diciamo così si forma verso la fine del 2009 da tre musicisti diversissimi per esperienze passate che decisero a un certo punto, abbiamo deciso di metterci insieme a far musica il più naturalmente possibile, quindi più naturalmente significa riuscire a far musica senza vincolarci, diciamo, a idee ben precise o a stili ben precisi, ma a far musica in acustico con chitarra, voce e percussioni, cercando di mettere, diciamo, tutto quello che ci viene al meglio per suonare, diciamo, quello che ti fa battere veramente il cuore, quello certo. che ti fa star meglio. Certo, assolutamente. Quindi senti, il progetto, diciamo, ecco. nasce sì, in sì, modo dimmi. Molto naturale, continua ad andare avanti così. Abbiamo fatto un demo, diciamo, un demo, quello che avete anche voi, quello che abbiamo ascoltato questa sera nel 2010. Sì. E stiamo lavorando al disco in questo momento, cercando di mettere insieme il maggior numero di idee possibili. Sì. E poi si vedrà, vedrà, insomma. Una senti, cosa molto, molto dimmi. Easy, non molto, diciamo, ragionata a tavolino. Senti, sul fare musica sì. In modo tranquillo, sedendoci uno di fronte all'altro in sala prove, tirando fuori idee naturali al massimo, insomma. Questo è quanto. È una bella cosa. Senti, sul vostro profilo io di Facebook sento veramente bassissimi, proprio sì. sento la voce. Adesso provvediamo dalla regia a sistemare il tutto. Senti, sul vostro profilo di Facebook leggiamo okay. Che avete creato un sound comodo, caldo e sinuoso. Esatto. Volevamo chiedervi, definiresti brevemente questo concetto di ascoltatori? Perché suono comodo, caldo e sinuoso? Allora, comodo perché, diciamo così, venendo tutti da esperienze diverse, suonando da parecchi anni, soprattutto guardando anche alla situazione che si ha adesso musicalmente in Italia, si fa sempre più caso che bisogna sempre aderire a una richiesta o essere il più simili possibile a qualcuno o cercare di calarsi al massimo per poter piacere. A noi il nostro sound piace definirlo comodo perché sta comodo a noi, nel senso che noi suoniamo esattamente quello che vogliamo suonare senza per forza doverci avvicinare a qualche artista o a qualche idea necessaria, suoniamo certo. solo quello che ci viene da dentro. Certo. Sinuoso perché la ritmica ha una importanza, come si può sentire anche dai pezzi, basilare, cerchiamo di dare con la musica al massimo del movimento, tra chitarra e chiaramente percussioni, e caldo perché tutto viene suonato in modo estremamente naturale con percussioni, quindi per esempio nel mio set ho il caon, che è uno strumento spagnolo, ho degli shaker, ho rullante, piatti, comunque... diciamo così, caldo perché il suono viene dal legno, il legno della chitarra, il legno delle percussioni e poi dallo strumento più naturale che c'è, che è la voce. Molto bello, molto bello. Senti, passiamo ad una semplicissima domanda, siccome io anche all'inizio non sapevo esattamente come pronunciare il nome della vostra band, è Dylane o Dylane? Allora, diciamo così, il nome lo si pronuncia un po' come uno vuole, noi diciamo Dylane. Però Dylane. Spesso e volentieri vediamo che la gente si trova più comoda a dire Dylane. Si fa un po' di confusione fra l'italiano e l'inglese, sì, molti certo. ormai tendono un po' a inglesificare, diciamo, questa parola nuova. Esatto, il nome è la fusione del il nome del gruppo viene dato dalla fusione del mio nome, Daniele, e del nome di Lenia. Ho capito. E quindi, non essendosi chiaramente una parola italiana, si tende a identificarla come una parola estera, quindi viene più naturale dire di lei. Esatto, esatto. L'importante è che se ne parli, diciamo, non certo. stiamo a guardare la correttezza della pronuncia. Certo. Senti, correggimi se sbaglio, finora avete pubblicato soltanto un promo nel 2009 e poi avete pronto un nuovo lavoro. Stiamo lavorando al disco, sì. State lavorando al nuovo disco. Della vostra musica si può apprezzare il fatto che cantate in italiano, stavamo parlando proprio dell'inglese e dell'italiano. Oggi la maggior parte dei gruppi si rifugiano nella lingua inglese. È stata una scelta ponderata la vostra oppure è venuta spontanea? Allora, una scelta ponderata e spontanea in tutti, cioè in toto, nel senso ponderata perché siamo italiani e vogliamo cantare in italiano, perché è l'italiano è una lingua stupenda. Spesso e volentieri le persone tendono a dire, ma sì, noi cantiamo o scriviamo in inglese perché è più facile. In realtà l'italiano come lingua è una lingua che offre tante di quelle varianti che rendono veramente possibile fare grandissima musica anche nei testi. Certo. E oltretutto l'italiano è una lingua che rende possibile, con poche parole, pochi concetti, rende possibile spiegare in realtà grandi cose. Quindi noi abbiamo sia ponderato questa scelta e poi chiaramente ci viene naturale scrivere così certo. In italiano. Quindi la scelta è stata, diciamo così, voluta, ecco, voluta e poi dal momento magari naturale anche allo stesso tempo. Esatto. Certo. Senti, in generale parliamo un po' dell'underground musicale bolognese, della musica emergente, come vive, come si vive dalle vostre parti, insomma. Allora, diciamo così, non stiamo passando un grande periodo, nel senso che come molte persone potranno confermare, Bologna in generale è una città che musicalmente è morta. ed è bruttissimo dirlo, perché oltretutto noi suoniamo in generale anche con altri progetti da più di 10 anni, quindi abbiamo visto com'era la Bologna di 10 anni fa e vediamo com'è la Bologna di oggi. Certo. Non offre grandi possibilità, i locali per suonare dal vivo sono estremamente pochi, spesso e volentieri molto grandi, quindi non alla portata di gruppi che fanno musica come noi, che certo, siamo piccoli. E soprattutto i locali che permettono la musica dal vivo tendono al 90% delle volte, giustamente anche, perché io mi metto nei panni di una persona che ha un locale che chiaramente deve fare un incasso, a chiedere gruppi che facciano cover. Quindi diciamo che la situazione in questo momento non è delle migliori. Noi però, anche se siamo piccoli, abbiamo la consapevolezza di poter ribaltare le cose. È bello. Nel senso che comunque riteniamo che la nostra musica sia piuttosto orecchiabile, quindi si possa cercare di avere compromessi senza chiaramente, almeno per quanto riguarda la visuale del gruppo che abbiamo noi, andare a fare cover, perché come noi pensiamo, diciamo, la cover è sì un bel modo di suonare, però non ci appartiene. Magari qualche pezzo qua e là, qualche tributo lo si può fare, però non ci appartiene come gruppo, preferiamo esprimersi in modo più originale, ecco. Assolutamente. Senti, quali sono i vostri prossimi impegni? I nostri prossimi impegni sono il 17 di questo mese, di febbraio, suoneremo al Sottotetto Sound Club di Bologna. Sì. Non è un concerto nostro, ma è un concorso, suoneremo nel concorso Emergenza Rock per uh-huh. farci vedere, per avere possibilità di sfruttare una vetrina in più. E poi siamo impegnati in studio per la registrazione del disco, quindi direi che con i live partiremo un po' più avanti. Senti, ci sono degli artisti, visto che parlavamo insomma di condividere il palco con altri artisti, ci sono degli artisti che ammirate di più o con le quali vorreste collaborare in futuro? A livello di underground o... a livello di artisti conosciuti insomma a livello nazionale? A livello, diciamo così, ecco, e gli artisti che ammiriamo di più, ma questo si può anche sentire nel nostro demo e in futuro nel disco, sono artisti come Nicolò Fabi, Silvestri, che sono i grandi, diciamo, cantautori contemporanei italiani, che hanno sempre il modo di dire qualcosa diverso dagli altri con della grande musica. Sarebbe un sogno per noi poter collaborare con artisti di quel calibro. Ve lo auguriamo. Ti ringrazio tanto. Senti Daniele, noi ti ringraziamo, mandiamo un salutone anche a Matteo e Ilenia, vi facciamo i complimenti per questo bellissimo progetto. Ricordo grazie il mille. Vostro indirizzo MySpace, www.myspace.com/dylanmusic, lì potete ascoltare anche la musica, insomma avere maggiori informazioni. Vi auguriamo e vi ringraziamo nuovamente per aver grazie. Partecipato a Rock Revolution. Ci teniamo veramente a ringraziare voi per questo spazio che ci avete concesso, perché sono cose al giorno d'oggi sempre più rare e ancora più apprezzate. Grazie mille ragazzi. Grazie veramente. Mille ancora, tanti auguroni, in bocca al lupo. Ciao, grazie. E quindi lupo. Dei Dylane, che dir si voglia, adesso andiamo ad ascoltare il secondo pezzo di quelli selezionati, un progetto davvero molto interessante che vi consigliamo assolutamente di tenere sott'occhio, come d'altra parte tutte le band che vi proponiamo ogni settimana musica nuova. Sappiamo che c'è molta gente che ci ascolta anche da Bologna e quindi sapete insomma che prossimamente si esibiranno in alcuni locali, avrete modo di degustarli, diciamo così, anche dal vivo. E quindi andiamo ad ascoltare adesso questa bellissima canzone che si intitola Oltre al Niente, i Dylane, da Bologna a Rock Revolution. Buon ascolto. Grida più forte da ogni sera.

Guarda Simone, non mi sarei mai aspettato di parlare di Lady Gaga all'interno di Rock Revolution. Guarda, è l'ultima cosa che avrei immaginato di parlare, invece... Infatti io avrei fatto una bella premessa, perché appunto ovviamente non ne parliamo mai, ma in questo caso appunto c'è questo connubio un po' particolare. Ci sono anche dei libri, sai, sul fenomeno Lady Gaga. Sì, sì, penso non li leggerò mai, però so che ci sono. Dicevo appunto che Lady Gaga ha promesso che farà ascoltare per la prima volta il suo nuovo singolo, Non vediamo tutti l'ora, ahimè. Però quello che più ci interessa è che appunto si vocifera di un possibile duetto, chiamiamolo così, durante i Grammy Awards tra Lady Gaga appunto e i Muse. Questa indiscrezione pare piuttosto azzardata, in quanto i Muse stessi non hanno nulla da promuovere al momento, e lo stesso frontman Matt Bellamy inoltre si sta godendo alcune settimane di relax in vacanza con la sua attuale fidanzata, che tra l'altro aspetta anche un bimbo da Matt Bellamy. La notizia anche della gravidanza dell'attrice è stata anche confermata da un portavoce di una rivista che appunto si occupa di questi gossip. Aspetti di gossip. Pare insomma che non vi sia alcun fondato motivo di dar luogo a questa strana collaborazione, ma certo ovviamente tutto è possibile nel campo della musica, soprattutto quando alla musica si affianca il marketing e la promozione, tanto che è vero anche un addetto ai lavori molto vicino alla band ha commentato dicendo: questo mi giunge nuova, ma chissà, tutto può succedere. Infatti, tra l'altro, parlando anche dei Grammy Awards, questo appuntamento annuale molto molto rinomato negli Stati Uniti vedrà anche, visto che ormai parliamo a tutto campo di musica, vedrà anche Eminem, anche ancora gli Arcade Fire, Katy Perry, Rihanna con CeeLo Green e anche Gwyneth Paltrow, che ultimamente si è data a quanto pare anche alla musica. Hai capito, dalla cinema alla musica, e sono proprio curioso di ascoltarla. Avrà fatto un singolo, insomma, penso, non sì, un album intero. Sì, penso un singolo. Vabbè, poi invece c'era quest'altra bella notizia che riguarda i miei mitici Guns N' Roses. A quanto pare c'è puzza di reunion, forse. Vediamo sì, un po'. Slash avrebbe ammesso di aver preso in considerazione l'idea appunto di tornare in forze dei Guns N' Roses, nei quali dalla formazione originale ad oggi milita soltanto il Axl Rose. Però appunto Slash ha dichiarato che sarebbe disposto a rientrare nella formazione a patto che il cantante si scusi con lui per il comportamento tenuto negli ultimi anni. Diciamo con molto realismo, tuttavia ogni tanto è bello perché quando io leggo si aggiorna la pagina e quindi viene ogni volta un quanto sussulto. Quanto era bella la carta stampata quando si teneva in mano. È vero. Insomma, Axl Rose afferma che se ricevessi una chiamata da parte sua sinceramente rimarrei sorpreso, se davvero dovesse succedere, però anch'io di certo dovrei fare i conti con i sentimenti provati dalla mia fuoriuscita dal gruppo, ma francamente dubito che succederà. Dovesse capitarmi, in ogni caso farei di tutto almeno per fare una bella chiacchierata sul nostro rapporto. E beh, questa è come minimo la base per poterne sviluppare uno nuovo. Sono stati degli scazzi, insomma, che li hanno visti in passato. Poi Axl Rose ha mantenuto il nome dei Guns N' Roses, ha fatto un disco che tra l'altro abbiamo anche ascoltato diverse volte in radio, però non ha riscosso, insomma, chiaramente il successo ottenuto con i vecchi Guns N' Roses, con il grandissimo Slash alla chitarra. A quanto pare, insomma, già soltanto il fatto di parlare di questa cosa, secondo me, qualcosa bolle in pentola. Ecco, parlavamo tanto tempo fa dell'Elite FIBA quando si erano sciolti e poi è divenuta realtà, diciamo che... Quindi chissà che anche con i Guns N' Roses non possa accadere la stessa cosa e possano tornare assieme. Io chiaramente me lo auguro, insomma, lo spero anche a tutti i fan dei Guns N' Roses, perché chiaramente, insomma, un pezzo di storia che si è perso e che tutti quanti avremmo il piacere di ritrovare molto molto volentieri. Adesso lui, che mamma, questo qui veramente, cioè, è uno di quegli artisti che non puoi fare a meno di ammirare, perché è poliedrico. Ne ho parlato tante volte, insomma, è una chicca proprio che mi rimane in testa. Il fatto che si riesca a suonare tantissimi strumenti è qualcosa di fantastico. Lui è Lenny Kravitz, un pezzo di almeno una decina d'anni fa, sempre comunque molto bello e attuale. Si intitola How You Gonna Be My Way. se il rock è la tua passione. Wow! Non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Pezzo Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. C'abbiamo proprio una bella notizia che riguarda proprio i Rolling Stones. Ahimè, purtroppo non è tanto bella, però purtroppo sempre più spesso la musica ha molto a che fare con le battaglie legali tra componenti o anche tra organizzatori e componenti della band, e questo appunto è uno di questi casi. Infatti parliamo di una battaglia legale che va avanti da parecchio tempo tra Live Nation e il suo ex presidente Michael Cole, che è uscito di scena nel 2008 per contrasti con l'amministratore delegato Michael Rampino. Parliamo infatti ovvero parliamo di colui che organizzava, diciamo, curava l'aspetto dei tour, dei Rolling Stones, chiamiamolo così, il tour manager, è uno invece dei responsabili, dei manager della band. Insomma, questi due sono in contrasto, sono anche, si scagliano delle azioni legali da parecchio tempo, e tra i due litiganti, il terzo, ovvero i Rolling Stones, hanno da poco emanato un comunicato ufficiale dove dichiarano che in seguito al termine del tour a Bigger Bang del 2007, questo comunicato appunto recita così: i Rolling Stones non hanno più alcun accordo o intesa contrattuale con Michael Cole, egli non è il loro rappresentante neppure il tour promoter dei Rolling Stones. Inoltre gli Stones confermano di non avere per ora alcun progetto definitivo da andare in tour. Insomma, questo comunicato precisa inoltre che la band avrebbe anche recentemente sottoscritto un accordo per il merchandising a livello internazionale con la Bravado Inc., mentre nel 2008 ha firmato un nuovo contratto discografico con la Universal Music, che è un'etichetta discografica, insomma, di tutto rispetto, che pubblica fra i più grandi artisti della scena musicale internazionale. Stavamo leggendo, insomma, un'altra notizia molto interessante che riguarda la rinascita del punk, questo genere musicale, anche stile di vita, che a quanto pare è più vivo che mai. Questo dato viene insomma evidenziato dal fatto che è stato ristampato con 500 pagine extra il fondamentale tomo Il Sogno Inglese, i Sex Pistols e il punk, con poi anche una mostra a Roma alla Villa Medici, l'Europunk, con appunto una discussione sulla cultura visiva punk in Europa fra il 76 e l'80. È un evento che vi consigliamo assolutamente di andare a guardare se insomma siete dalle parti di Roma. Comunque il punk è una dei generi musicali che noi trattiamo all'interno di Rock Revolution: i Sex Pistols, i Ramones e tanti altri che poi furono e che sono, come i Green Day, i portatori del punk a livello internazionale. Sono anche tantissimi bei film da guardare a riguardo, forse più nelle capitali come Roma o anche nelle città grandi come Milano si sente un po' più questa influenza. Nelle città un po' piccole, a meno a Palermo, mi è sembrato di non viverla molto intensamente questa tendenza e questa moda anche musicale. Comunque ci auguriamo, insomma, che possa anche qui prender piede, perché comunque è un genere musicale molto particolare, uno stile di vita un po' tosto, però ecco, sappiamo che c'è molta gente che lo apprezza in sordina e speriamo che possa venire fuori qualcosa di interessante. Ebbene sì, rock and roll anche questa venerdì sera su CRMP Radio con Rock Revolution. Vi teniamo svegli, ragazzi. Sahara Hot Nights, questo è un pezzo qualche annetto fa. Tutto bene, si titola, tradotto chiaramente in inglese, Alright, Alright. Venerdì dalle 21 su CRM Happy Radio Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. inside your soul, there's a hole you don't wanna see. Covering it up like a cut with the likes of me. No, I've really tried, I can't do any more about you. Ci voleva, ci voleva. Una bella scossa di punk rock. Lo sono gli Offspring, Can't Get My Head Around You. Bello sto pezzo, eh? Bella scossa di elettricità. Ci stava un po', visto che abbiamo parlato di punk, Gianni si è accesa la lampadina e ha deciso, insomma, di farci ascoltare questo bel pezzo degli Offspring, ma anche quest'altro degli Hello Car, che non so però, siccome hanno influenza anche un po' indie, se effettivamente questo pezzo è punk o è oppure è indie. Gianni, cosa mi dici? Cos'è, punk o indie? Rock Revolution su CRMP Radio, questo venerdì sera, passatelo in modo rock, ragazzi, eh. October Nights, una bella notte di ottobre. Beh, noi ormai l'abbiamo passato già da un po', speriamo insomma di arrivare presto la primavera, un po' di caldo, un po' di sole, potersi mettere su un prato con una bella chitarra, eh? Ci sta alla grande. Quelle belle giornate, sai, con il tepore, con il sole caldo caldo, ti puoi sdraiare in un prato, non c'è neanche troppo caldo, che poi troppo fa male, no? Una temperatura, diciamo, mite, ecco. Mettersi su un prato, prendere qualche margherita e suonare la chitarra, questa sensazione così molto rilassante, insomma, manca veramente un po'. E vabbè, per fortuna siamo a febbraio, arriverà presto, mi auguro. Nel frattempo arriva molto presto, devo dire, la pubblicità, e subito dopo il Rock for You, 4 successi rock in sequenza, senza interruzioni. Buon ascolto. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies,

4 successi rock più belli di tutti i tempi, in sequenza impensata. Si rock in sequenza senza interruzione. for you, il miglior rock di tutti i tempi, in sequenza mixata. No, I know that I can't make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your... I know there's nothing I can say to change that part. To change that. Thank you. E questo era il Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni anche questa settimana, grandi successi dal punk al rock and roll un po' più melodico, come nel caso di questo pezzo che stiamo sentendo ancora in sottofondo. Caro Simone, andiamo a parlare adesso dei Blur, che non è un senso di nausea, ma è il nome di un gruppo. Il nome di un famosissimo gruppo, il chitarrista, ovvero Grant Coxon, ha fatto sapere di essere pronto, assieme a Damon Albarn, Alex James e Dave Rowntree, a fissare sul nastro del nuovo materiale in vista di una futura pubblicazione del gruppo. L'annuncio, seppur non così esplicito, è avvenuto qualche giorno fa per mezzo del ormai diffusissimo Twitter, il Twitter personale dell'artista. Infatti lo stesso dichiara: sono fuori a vedere i ragazzi per un caffè e forse per tornare a schiacciare il tasto record del registratore. Questo appunto lo scrive sul suo account Twitter Coxon. Alla richiesta però di maggiori informazioni da parte dei suoi followers, il musicista nato a Rientel in Germania ha affermato: è solo una riunione, meglio che non mi porti dietro la chitarra. Insomma, un po' enigmatico questa affermazione. Lo scorso novembre, tra l'altro, Damon Albarn, che aveva precedentemente annunciato di sospendere a tempo indeterminato le attività con i Gorillaz per almeno tutto il 2011, aveva fatto intendere di voler riattivare Blur, perché ancora non ci fosse, benché non ci fosse alcun piano né per la registrazione di materiale inedito né per un eventuale tour. Il gruppo, ricordiamo che con gli Oasis segnò il periodo d'oro del Britpop negli anni 90, è discograficamente fermo dal 2010, quando pubblicò il singolo Fool's Day per il Record Store Day, mentre l'ultima attività dal vivo venne registrata l'anno precedente, ovvero il 2009, quando si esibì al festival Tea in the Park in Scozia. Benissimo, poi ci sono anche delle novità che riguardano l'album di un grandissimo cantante italiano, cantautore, stiamo parlando di Jovanotti, ho detto con la G molla, a quanto pare insomma un disco ricco di melodie un po' diverse da quelle che ultimamente utilizzava, infatti ci sono degli accenni di techno ma anche grandi lenti, il DJ Jovanotti a quanto pare insomma rilegge il suo passato in questo nuovo disco che vi consigliamo assolutamente di andare ad ascoltare. Poi altri suggerimenti questa settimana, vi consigliamo gli Hotel Shampoo, che hanno prodotto un disco molto interessante, si intitola Graph Rise, e ve lo consigliamo. Altresì un'altra band, i Go-Go Boots, che non sono i Go-Go Dolls che conoscevamo qualche tempo fa, Go-Go Boots con Drive-By Truckers, che è un altro album molto interessante da ascoltare questa settimana. Sono questi due album che vi consigliamo di andare ad ascoltare, se potete insomma comprateli, è sempre meglio dare un piccolo aiuto alla discografia nazionale. Adesso due brani in sequenza molto belli, subito dopo parleremo ancora di rock and roll, di notizie dal mondo del rock and roll, il tutto come sempre all'interno di Rock Revolution, il programma del venerdì sera dalle 21 a mezzanotte, con il rock and roll, la musica emergente, le notizie e chiaramente come sempre il rock and roll. E qui io quando sento queste chitarrine in sottofondo, ragazzi, proprio mi piace. Chi è che faceva? Mi piace. Un film di Troisi forse. I came to LA to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. I made some good friends and made me say I really wanna be in LA. I took the tent against a Beverly, laid some rock and tape, roll out on 180. Alan and Natasha always make me say I really wanna be in LA. Rock Revolution su CRM Happy Radio. Stasera un bel po' di influenze, un bel po' di influenze punk. Salutiamo Fabio, il nostro carissimo amico che ci ascolta. Ti mando una bella Claymore. Rock Revolution continua ancora per mezz'ora in diretta su CRMP Radio. Saremo poi in replica anche domenica dalle 21 alla mezzanotte. E poi durante la settimana, se avete voglia, chiaramente piacere, visto che si sta avvicinando San Valentino, sappiate che il giovedì notte è dedicato all'amore. Ecco, noi siamo anche cattivi, però sappiamo anche voler bene. Stronzato ho detto, boh, vabbè. Il Rock Revolution Love Edition è un'edizione dove potete ascoltare tutta la più bella musica rock and roll per due ore, senza interruzioni, tutti i pezzi lenti da poter gustare con la vostra donnicciola. Donnicciola forse non è proprio il termine adatto. Con la vostra fidanzata, diciamo. Perché mi guardi così, scusa? Stai prendendo nota delle cavolate che sto dicendo? Perché stiamo preparando un bel rock and roll edizione speciale di Rock Revolution con il meglio del peggio. E quindi Gianni prende nota ogni volta di quello che fesseria, così poi possiamo montare per questa bella sorpresa. Arrivano i Green Day, altro punk, Doesn't Size It. Bello sto pezzo. It's like a sponge. Give it to me free. I wanna get ripped off and drown in the waves and never play it all back. All the information I wait. So go ahead and kill yourself. Say it all if it is me. Blood and pain. a stranger's face. Give it all away. I'm desensitized. I wanna watch a bomb blow the masses high. I wanna get ripped off. Senti Simone, ma io non ho ancora capito se effettivamente questi giorni della merla sono passati oppure siamo ancora nella merla. Ma direi proprio che siamo pienamente nella merla. E beh, effettivamente, insomma, sono le ultime giornate, gli ultimi colpi d'inverno, di freddo, di umidità, di pioggia, che ci tocca, insomma, ci tocca proprio, ragazzi, ci tocca viverle e soffrirle, che poi dalle nostre parti, almeno a Cefalù, in provincia di Palermo, c'è sempre molta umidità, perché data la vicinanza al mare, insomma, si sente un po' di più, e quindi, insomma, è un periodo. Poi anche le case non sono riscaldate come dovrebbero. Al nord tutte quante le case, le abitazioni hanno un sistema di riscaldamento, qui invece ci si arrangia, insomma, come meglio si può, con la stufetta elettrica, col climatizzatore, con il come si chiamava? Il braciere. Il braciere. Ti ricordi il braciere, con i carboni ardenti dentro casa? Che poi, insomma, non si può fare perché fa male. Che si metteva sotto il letto, che puntualmente prendeva fuoco, là, le tragedie. Infatti, ma cose di pazzo. Intanto questi erano i metodi che si usavano una volta. Ci vorrebbe qualcosa di più ecologico, mi sa. Loro sono molto attenti all'ecologia, a tutto ciò che è l'ambiente, la salvaguardia dell'ambiente. Sono i Muse. E questo pezzo si intitola Plug-in Baby. Si avvicina lentamente la primavera, si avvicina anche l'estate, periodo in cui, insomma, si sa, ci sono quei concertoni, quelli storici dei cantanti italiani, ma anche dei cantanti internazionali, la gara al riempimento dello stadio, le collaborazioni con gli artisti, insomma, si avvicina un periodo intenso per quello che riguarda il tour management, diciamo così, per quello che riguarda l'organizzazione dei tour e dei concerti in giro per l'Italia. È uno di quelli che, insomma, si dà sempre molto da fare nell'organizzazione dei tour in tutta Italia, e lui, sì, l'avete riconosciuto, è proprio Lucianone che al momento pare stia lavorando a un nuovo film. Ne sapremo di più la prossima puntata di Rock Revolution. Adesso ascoltiamo proprio una canzone adatta a quello che stavamo dicendo poco fa. Si intitola Tra palco e realtà. Buon ascolto. Abbiamo facce che non conosciamo, ce la mettete voi in faccia pian piano, e abbiamo fame di quella fame che il vostro urlo ci regalerà. E abbiamo l'aria di chi vive a caso, l'aria di quelli che paghi a peso, e abbiamo scuse che anche se buone non c'è nessuno che le ascolterà. E poi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città, ci mette davanti a un altro microfono che qualche cosa succederà. Siamo quelli là, siamo quelli siamo quelli là, quelli tra palco e realtà. Tap tarorara, tap tarorara, tap tarorara, quelli tra palco e realtà. Tap tarorara, tap tarorara, tap tarorara. Abbiamo amici che neanche sappiamo, che finché va bene ci leccano il culo. E poi abbiamo casse di Malox per pettinarci lo stomaco. Abbiamo soldi da giustificare e complimenti per la trasmissione, e abbiamo un ego da far vedere ad uno bravo davvero un bel po'. E poi abbiamo chi ci dà il voto, ci vuol spiegare come si fa. E come prima non si è montato, ognuno sceglie la tua verità. Siamo quelli là, siamo quelli là, siamo quelli là, quelli tra palco e realtà. Tap tarorara, tap tarorara, tap tarorara, quelli tra palco e realtà. Tap tarorara, tap tarorara, tap tarorara. E c'è chi non si sbaglia mai, ti guarda e sa chi sei. C'è chi non controlla mai dietro la foto, e c'è chi non ha avuto mai nemmeno un dubbio mai, nemmeno un dubbio mai. Accesi o troppo spenti, e non abbiamo chi ci fa sconti, che quando è ora si saluterà. E ce l'abbiamo qualche speranza, forse qualcuno ci ricorderà, non solamente per le canzoni, per le parole o la musica. Siamo quelli là, siamo quelli là, siamo quelli là. Ma senza dubbio, insomma, i concerti, la musica dal vivo è un'esperienza assolutamente da vivere, perché chiaramente, insomma, si vive e si sente poi la musica, il pompare dei bassi nel petto è una sensazione molto particolare, che vi consigliamo, qualora non l'abbiate già fatto, di fare al più presto. Poi, insomma, ultimamente, almeno dalle nostre parti, ci sono anche stati dei concerti di una certa rilevanza, quindi si è avuta possibilità, insomma, di ascoltare le band come i Deep Purple, ad esempio, che non si ascoltavano e che nessuno mai avrebbe detto potessero venire qui a suonare. Adesso divento cattivo. Ecco, ci vuole un po' la voce cattiva, mi sa. Avete riconosciuto? C'è anche un film, una saga, The Twilight. Parliamo di lupi, lupi e uomini. Lo sono di Metallica, Of Wolf and a Man. Therefore I am Anche loro hanno subito una bella trasformazione durante questi ultimi anni. Metallica dal metal allo speed metal con Death Magnetic, che è l'ultimo album che hanno prodotto, molto interessante. Parliamo assieme al caro Simone di Robert Plant, il grandissimo dei Led Zeppelin. Kevin, cosa ci racconti di bello? Sì, lo stesso si è dichiarato pronto a lavorare su un materiale inedito insieme alla sua attuale band, la Band of Joy. Dopo il successo del primo album, che era una raccolta di cover con un solo inedito, Central 209, il cantautore è intenzionato a comporre nuova musica insieme al resto della formazione per proporla in un nuovo disco. I lavori di questo nuovo lavoro, scusate il gioco di parole, cominceranno non appena si sarà concluso il tour nordamericano che li sta impegnando proprio in questi mesi. Benissimo, poi leggiamo una notizia come al solito, insomma quasi ogni puntata ci tocca parlare di Liam Gallagher, perché viene sempre fuori con qualche novità un po' particolare. Durante un'intervista a una nota rivista inglese di musica del settore, chiedendo appunto il giornalista al cantante quale musica ascolta attualmente, Liam risponde: sento quasi solo dischi vecchi, sempre meglio che ascoltare un beep, ecco diciamo così, di clown di cantante attuale. A quanto pare il frontman degli Oasis, ex frontman degli Oasis, si scaglia contro tutte quelle che sono le realtà musicali attuali. Ecco, sappiamo che ultimamente la musica si è un po' conformata, se vogliamo dire così, all'hip hop, comunque al pop un po' più elettronico, e questa cosa insomma non è molto gradita al cantante degli Oasis. E noi siamo un po' d'accordo, no Simone? Effettivamente ultimamente si sente veramente molto molto hip hop, con tutto il rispetto insomma per questo tipo di musica. Sì, si tende sempre ad andare su quello che è attuale, quello che è più commerciale, che è più facile da proporre, e quindi diciamo si va per questa via più meno impervia. Facile, e quindi si scaglia contro tutte queste realtà attuali che riguardano insomma la scoperta di talenti emergenti come i talent show, come ad esempio X Factor in Italia, che poi è un format che viene trasmesso in tutto quanto il mondo, ma ci sono poi tanti altri insomma che portano alla ribalta gente prevalentemente sconosciuta tramite una trasmissione televisiva. E poi però ecco, lui lamenta il fatto che non sono degli artisti che si sono sudati il palcoscenico e le ore di prova, di dura prova, e quindi non hanno poi la possibilità e la forza di affrontare quello che è lo show business, che vede poi tutti quanti gli artisti in una sorta di guerra virtuale fra vendite e guadagni. Per una volta mi trovo d'accordo con Liam Gallagher. Anch'io decisamente. Va bene, adesso andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo, ci avviciniamo lentamente al capolinea di questa ennesima puntata di Rock Revolution, e come nostra abitudine andiamo a fare un bel salto indietro nel tempo con una grandissima canzone dei Dire Straits che bisogna ascoltare effettivamente con una certa attenzione, perché ci sono degli assoli, ragazzi, che sono veramente veramente fatti bene, devo dire la verità. L'entra in sintonia da Lady Rider, questo è Rock Revolution, buon venerdì sera. Tutti i venerdì dalle 21 su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. Blink 182, Going Away to College. College che è una di quelle cose che tutti devono fare in America. Prima o poi ci sono passati tutti quanti. Le feste, i party, le confraternite. Le confraternite, insomma, questo è proprio ormai uno status quo degli americani, insomma, andare in college. Che non è assolutamente come le nostre università, è decisamente diversa, no Simone? Sì, diciamo, ti dà un'infarinatura un po' generale sulle materie e poi, diciamo, durante il corso degli anni puoi indirizzarti verso una, diciamo, un particolare ramo della scienza, chiamiamola così. Infatti, va bene, siamo arrivati al momento del sondaggio della settimana e quindi sigla ufficiale. Avanti. Il sondaggio della settimana. Ebbene sì, quindi come ogni settimana, insomma, sapete che sul nostro sito internet rockrevolution.it è presente un sondaggio dove voi potete votare la canzone e la band che più vi piace. Questa settimana fra le tre band, ricordiamo, erano... Allora, avevamo sì Medifly con My Spleen, New Runs con Senza Te e i Seven Chores con Solamente con la Mente. Con 34% di voti, signori e signori, me la fai sentire anche la... La band vincitrice, ecco, del sondaggio della settimana è... Seven Chores con Solamente con la Mente. Benissimo, Seven Chores, complimenti, avete vinto una settimana di rotation all'interno della nostra emittente, quindi tutta la settimana Solamente con la Mente dei Seven Chores. Niente prima, adesso per il sondaggio settimana di Rock Revolution. Si conquista con una parola dolce, ma che sogno nasce già. C'è chi ti conquista con una rosa rossa, ma che uomo è questo qua? Ma guarda quanti sguardi si concentrano al di là della tua veste candida. Guarda da lontano, si avvicina una mano e toccarti vuole già. Ma stai attenta a non fidarti dei gesti falsi, falsi, fatti. Crede che le donne sono donne, non oggetti mobili. C'è chi vede c'è chi non le ammira mai. Ma stai attenta a non fidarti di gesti falsi, frasi fatte che ingannano. Ma stai attenta a non fidarti, le donne non sono mai state in vendita. Solamente con la mente si fa, solamente con la mente si può rapire il cuore di ogni donna. Solamente con la mente si fa. Ascolterete tutta la settimana in rotation nella nostra emittente CRNP Radio. Tra l'altro questa settimana anche grandissime novità musicali in anteprima assieme ai grandi network. Parliamo di grandissimi pezzi che potrete ascoltare in settimana nelle nostre playlist, oltre chiaramente agli appuntamenti con i programmi con Roby D'Antoni, Isabella Ilardo, Mary Catalano. Insomma, qua e là fra una novità e l'altra sono tantissimi contenuti. Salutiamo tutti quanti i colleghi che sono sempre tanto da fare per CRNP Radio. Caro Simone, anche questa sera siamo arrivati al capolinea. Ahimè sì, ovviamente vi aspettiamo venerdì prossimo, come sempre puntuali, mi raccomando, con Rock Revolution. Che dire, alla prossima. Alla prossima Simone, tenetevi aggiornati nella nostra pagina Facebook Rock Revolution, con tutti quanti i messaggi e video che vi postiamo ogni tanto per tenervi sempre allerta. Saluto anche il caro Gianni in regia. Gianni, buonanotte. La nostra redazione Ida, dall'altra parte nascosta, salutiamo anche lei questa sera. Ogni sera lo facciamo. Salutiamo anche voi a questo punto, mi pare il minimo. Appuntamento la prossima settimana, buonanotte, grazie. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Happy Radio.